Falsificata quando la costrizione dell'ambiente si adopera per sostenerne la menzogna, che possono non essere minori nel caso in cui, sposando un uomo, la madre della donna da cui ha avuto un figlio, questi avrà per fratello un bambino, fratello di sua madre. Ma se in seguito e il caso non è inventato, egli viene adottato dalla famiglia compassionevole di una figlia nata da un precedente matrimonio del padre, si troverà ancora una volta fratellastro della nuova madre e si può immaginare la complessità dei sentimenti con cui aspetterà la nascita di un bambino che sarà nello stesso tempo suo fratello e suo nipote. In questa situazione ripetuta punisci i tuoi genitori. Un nato tardi da un secondo matrimonio e la cui giovane madre si trova ad avere gli stessi anni di un fratello maggiore. E si sa che questo era il caso di Freud. We'll be right back. Thank you. servirò. Dicono tutti che colpa mia. Viaggiavo nel cielo, gonfiato dal vento. Sembravo ubriaco di un grande potere. Un rumore d'acciaio mi ha fatto cadere. Nel fango senza più stile. Dicono tutti che è colpa mia. Giocano tutti col corpo sgonfiato dal vento che senza memoria. Dicono tutti che è colpa mia. Il vento mi ha detto che morì. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Na na na na na na na na to the door. Ay ay ooh. Na na na na na ooh ooh ooh ooh. Na na na na na na na na na to the door. Ay ay ooh. Na na na ooh. Thank you.

We'll be right back.

Thank you. l'ascensore, lascialo andare e prendi.